Vendo tutto di Matteo Caccia. Quando realizzi un tuo desiderio è come se una parte di te fiorisse. È come se finalmente potessi vedere con i tuoi occhi quello che avevi tenuto nascosto per un sacco di tempo. Sabato mi sono lanciato da 4000 metri e quello che dovevo vedere l'ho visto. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni, lo so, capita, succede a tutti ed è toccato a me stavolta, però io ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo un cesto per la biancheria. Allora, mancano 10 giorni e ho due notizie per voi. 10 giorni a cosa? 10 giorni al... Andiamo per ordine, che già l'altra volta ho fatto un casino, sono svenuto dal paracadute, un delirio. Allora, mancano 10 giorni al 14 di maggio. Al 14 di maggio, che è il giorno in cui Vendo tutto sarà al Salone del Libro. Ricordiamo che Radio 24 è là, credo, dal 13, insomma, è là da qualche giorno prima. C'è un bellissimo stand. Noi però siamo là solo il 14 alle 16 in diretta. E ci sono due notizie, una buona e una cattiva. La notizia buona, scusatemi, partendo con la cattiva che è meglio. La notizia cattiva è che purtroppo per sedersi non ci saranno solo puff. Ci saranno anche delle panche. Me l'ha detto prima Elena del marketing. Ci saranno delle panche bianche. Quella buona invece è che ci saranno anche i puff e che le persone che potranno stare saranno molto di più di quelle che immaginavo. Quindi vi aspettiamo alle 16.30 venerdì prossimo. Non è venerdì prossimo, è tra due venerdì, 14 maggio. Alle 16, certo. Oh, non ne sto dicendo una giusta, ragazzi. Non una. Cioè, mi fai ripartire la base da capo, Paolino? Eccoci qua. Allora, vi aspettiamo venerdì 14 maggio alle 16 in diretta a Torino al Salone del Libro. Puff per tutti quanti. Ricordo, Radio 24, l'unica radio che ti mette a sedere. Sul puff sono le 16:09 minuti. Fortunatamente oggi a Milano c'è una bella giornata e quindi si sta bene, sembra di stare nella foresta amazzonica. Oggi però si parla di regole casalinghe. Perché quello che vendo oggi è un cesto per la biancheria, ma non è solo un cesto per la biancheria. Anche se alla fine dirò il contrario, che è solo un cesto per la biancheria. In realtà non è solo un cesto per la biancheria. Questo è stato il totem delle regole della vita di coppia. È stato un po' l'oggetto che ogni volta che lo vedevo, ancora adesso quando lo guardo, mi ricorda quanto vivere insieme sia un insieme, insieme a qualche persona, sia un insieme di regole continue. Prima con Tiziano ci raccontava in redazione che è stato codificato una sorta di elenco delle regole che esistono nella vita privata, nelle case delle persone, che per lo più emergono quando nasce un figlio, per il semplice fatto che quando nasce un figlio le regole non scritte vanno dette, no? Tipo, no, lì non ti puoi sedere perché quella è la poltrona del papà, no, lì non puoi andare perché quella roba lì ci entra solo la mamma. Insomma, quelle regole che vengono fuori quando nasce un bambino in realtà esistono da anni nelle coppie, sono cose solo non dette, tipo: allora, non si può mangiare sul letto perché sbriciola, non puoi mai accendere la TV prima di pranzo. Questa è della Faggin, mi pare, giusto? Mai accendere la TV prima di pranzo, solo dopo o durante. Oppure, che so io, togliti le scarpe per entrare in casa. Questa è una regola molto scandinava: togliti le scarpe quando entri in casa perché forse fuori piove. Poi a casa Faggin c'è un'altra regola, o meglio, l'hanno imposta a lei: non lavarti i denti, non camminare lavandoti i denti, altrimenti cosa? Qual è il problema? Niente, altrimenti sgoccioli in giro, certo, ma o forse puoi farti male. Poi ancora, vabbè, ovviamente per i figli c'erano. Tiziano ricordava che quando c'era il telefono fisso c'era la durata massima delle telefonate in casa. Cioè, non è che puoi stare al telefono un'ora, massimo 5 minuti. 800 24 00 24, 349 238 6666. Fate come al solito quando ascoltate Vendo tutto: vi fermate 30 secondi e cercate di ricordarvi quante regole imposte, ovviamente, o avete imposto in casa vostra. Se siete donne, vostro marito. Se siete mariti, le avete semplicemente subite. 800 24 00 24, 349 238 6666. Che so io, il calcetto ci mettiamo d'accordo, ci vai solo il giovedì sera, perché il venerdì sera c'è l'abbonamento a teatro. Ripetiamo: 800 24 00 24, 349 238 6666. Le regole imposte in casa. Adesso parliamo del mio cesto, che era, diciamo, la regola cardine della vita di coppia, della mia ormai passata vita di coppia. Per vedere il cesto, radio24.it, per sentire la storia, state qui. Il cesto per la biancheria. Cesto per biancheria, forma cilindrica con coperchio, materiale Vimini, colore bianco, interno in stoffa, altezza 45 cm, diametro 35 cm. Ottimo per chi vuole tenere i panni sporchi ben nascosti in casa propria. Valore commerciale 34 euro, base d'asta Vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Fino a quando sono andato a vivere da solo, i miei vestiti scomparivano nella bolla della lavatrice. Ce li mettevo quando erano sporchi. E poi riapparivano un paio di giorni dopo, magicamente, nel mio armadio. Perfettamente lavati e stirati. Ecco, quella per me era la normalità. Quando ho conosciuto Giulia, però, ero già abbastanza capace di separare il bianco dai delicati, ad esempio, di stirare quando occorreva, perfino lavare i capi in lana. Altra cosa era avere a che fare con i capi femminili. Allora, innanzitutto, una specie di terrore aleggiava sulla lavatrice mentre lei centrifugava un capo femminile, perché nel caso in cui il lavaggio fosse venuto sbagliato, non si sarebbe trattato di un vestito rovinato, ma di una tragedia. Personalmente non ho mai nemmeno lavato un paio di calze di Giulia, e non per poca voglia. No, anzi, in fondo ci sarebbe stato pure un che di intimo, di delicato, quasi intrigante nel mettere le mani nei suoi panni. Lo avrei fatto anche volentieri. Ma lei aveva messo fin dall'inizio nella nostra convivenza delle regole ferree. E tra queste regole c'era che non si mescolano i panni sporchi. Che sembra un modo di dire, e invece era solo un modo per impedirmi di danneggiare le sue camicette, ma anche un desiderio di mantenere le distanze. Sì, perché Giulia aveva questa teoria tutta sua, che ho imparato a capire con il tempo. Dunque, lei diceva che se due persone stanno insieme è perché cercano nell'altra qualcosa che non hanno, e quindi la desiderano. Ma quando si vive insieme, il rischio è che sia tutto svelato, no? Cioè che sia tutto trasparente, troppo poco misterioso. E quindi la relazione entra in sofferenza. Da qui, ovviamente, la separazione delle lavatrici. Le tue mutande staranno con i tuoi calzini e i miei reggiseni con le mie gonne. Quindi, due cesti per la biancheria. Matteo, anche i miei genitori fanno così. Giulia mi diceva così quando le chiedevo perché non mescolarci insieme tutto romanticamente, no? Non ricordare più dove finisce uno, dove comincia l'altra. Mentre lei era convinta che non darsi mai per scontati, mantenere delle zone di privacy assoluta, fosse l'ingrediente fondamentale per la nostra vita di coppia. Faceva parte delle regole, appunto, ancora le regole. Tipo, non si fanno rumori molesti, in bagno non si va mai in due, nemmeno per lavarsi le mani, si gira sempre vestiti, non si sbriciola sui divani e tutte quelle robe lì. Un cocktail di norme per la convivenza civile dettate in parte dalle abitudini passate e in parte dalla teoria del mai darsi per scontati. Io ho accettato tutto perché l'amavo, ovviamente, e poi in fondo credo che avesse un po' ragione. Però sul doppio cesto per la biancheria feci una resistenza durissima prima di cedere. Perché, come tutti gli uomini sempre inevitabilmente fanno, se sono veri uomini, io cedetti. E ovviamente comprai il secondo cesto. Non potendo mescolare gli indumenti in lavatrice, facevamo 1000 lavaggi. Che era un grande spreco di energia e anche un bel fastidio per le orecchie, devo dire, anche perché la nostra lavatrice non era esattamente l'ultimo modello di lavatrice. Quindi erano soldi in più per le bollette e discreto giramento di maroni, finché un giorno ho deciso di accendere una delle nostre litigate più memorabili. Quando i temi all'ordine del giorno sono meno importanti, non so se avete notato, però i toni delle litigate si alzano di più. Forse perché ci si sente più liberi. Voglio dire, se si parla di temi rilevanti tipo la vita o la morte, oppure la relazione amorosa stessa, e si mostra un enorme disaccordo, è difficile poi far la pace, no? Quindi tante volte si sta un po' sulle proprie. Mentre se si parla della relazione di qualche altra coppia, ad esempio, oppure di temi semplici tipo la lavatrice, allora ci si concede di alzare il livello dello scontro. Ecco, io quella volta ho usato parole veramente grosse. Ho cominciato a dirle che questa era casa nostra, che potevamo inventarcele da noi le regole, e che non è che se i suoi genitori avevano fatto così, allora era la cosa giusta da fare, e che volendo casa nostra poteva diventare un porto franco in cui fare solo le cose del nostro mondo, e che questo a me sarebbe sembrato pure una cosa romantica, e che ero anche deluso da lei se non lo capiva. tutto ovviamente condito da un discreto numero di volgarità gratuite, che male in questi casi non fanno mai. Facciamo la pace la mattina dopo, anche perché lei era stata molto colpita dall'idea di mescolare i panni sporchi. L'aveva vista come una metafora del mettere insieme le nostre difficoltà, e quindi unire un po' le forze, senza pudori, senza paura. Insomma, era tutta contenta. E io pure ero contento. Soprattutto perché mi aveva dato completamente ragione. Cioè lei aveva detto: sì, Matteo, quello che tu dici è giusto e quello che dicevo io era sbagliato. In fondo non me ne fregava niente dei panni. Però ero felice di buttare la cesta vecchia e mescolare tutto in quella nuova. Perché alla fine voleva dire che contavo qualcosa, no? Eppure niente, nonostante tutto, nonostante le calze sporche che ha visto e il bene che ci ha fatto, anzi, forse proprio per quello, io questo cesto lo vendo. Il suo valore è di 34 euro, la base d'asta sono 99 centesimi. Per raccontarmi le regole ferree della vita di casa vostra, 800240024. Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. Entrambi viviamo da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere, fare l'amore. Lo vedi, sono tante le cose in comune che farne un elenco ci vogliono almeno 3 ore. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. 16:20, questa è Radio 24, 800240024 per quelle regole ferre che vi hanno imposto in casa vostra, magari anche se siete adolescenti, non so quanti adolescenti ci siano all'ascolto in questo momento, se però avete 16 anni e non sopportate più quelle regole che vi hanno dato, tipo tornare tassativamente entro mezzanotte, si torna tassativamente entro mezzanotte, oppure fare i compiti solo in quella fascia oraria, oppure non vedere quella ragazza che altrimenti si comincia a pomiciare troppo presto, 800240024, oppure 349-238-6666, arrivano dei messaggi. Allora, un paio di messaggi di servizio prima di cominciare. Fabrizio mi chiede se ho fatto colazione con la vecchia Romagna stamattina, perché non si capisce niente di quello che dico. Guarda, se bevessi direi di sì, ma non è così. E poi Gabriele mi corregge, dice: dassi mai per scontato, si dice dessi. Io credo di aver detto darsi, era un infinito, giusto? Grazie Laura, perché per un attimo ho avuto proprio il tremendone e avevo sudato freddo. 800240024, regole ferre di casa vostra, ve ne leggo qualcuna. Domenica pranzo della suocera e la cena pizza, obbligatoria. La domenica la moglie non cucina mai. Alex, abbiamo però una donna all'ascolto, credo per parlare di cesti e di biancheria sporca. Elena da provincia di Milano. Pronto Elena? Ciao, sono Elena. Ciao, buongiorno Elena, come stai? Bene, bene, sono in viaggio, sono andando a prendere i bimbi a scuola. Dove abiti esattamente? Abbiategrasso. Ok, quanti bimbi hai? 2, 6, 8 anni. Però hai... Sono già abbastanza grandini per capire le regole. Tipo, che regole gli dai a sti bambini a 8 anni? Vabbè, la regola cattivissima che si guarda soltanto un'ora al giorno la televisione. Un'ora al giorno? Ma guarda che ma nessuno guarda un'ora al giorno la TV, almeno la si guarda per 3-4 ore al giorno. Sono cattivissima. Poi si mangia in cucina e poi io in bagno ho 3 ceste della biancheria. Ma aspetta, ma ne hai 3 perché sono 3 piccole o sono 3 perché sono 3 divise? No, perché sono 3 di 3 colori diversi, l'ho impostata come gioco. Ho preso 3. Non è male, Laura. Ma te l'ho imposto come gioco. Cioè? Sì, perché sono 3 cesti raccogli gioco dell'IKEA classici. Uno per il colorato, uno per lo scuro e uno neutro per il bianco, e quindi basta da piccoli essere così indirizzati e loro sanno già dove. Alla sera si spogliano e sanno già dove buttare le proprie cose. Senti, ma in tutto questo, Elena, quel grand'uomo di tuo marito, come la vive? No, la vive bene, infatti è lui il più disordinato, che spesso confonde le cose o le lascia sparse. Vabbè, senti Elena, dammi l'ultima cosa, poi ti saluto, una regola che hai dato a tuo marito. Magari anche tacita, non che gli hai detto fai così, però di fatto si fa così. Devo dire che sono stata molto fortunata con mio marito, quindi non è che ho impostato moltissime regole. L'unico marito che si autoregola. Elena, grazie mille, sì. Salutami i tuoi bimbi. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao. Andiamo in provincia di Cuneo da Davide. Pronto? Ciao. Ciao, come stai? Io bene, bene. Anch'io bene, bene. Quindi, tra l'altro devo darti ufficialmente la notizia che credo mi sia calata la vista da ieri a oggi, perché non vedo più il nome delle persone scritte sullo schermo. Ma questo chi se ne frega in fondo, è un problema mio, metterò un paio di occhiali. Davide, perdonami, andiamo avanti. Allora, la regola che ho io è una regola che mi era stata imposta da mia madre, e soprattutto da mio padre: quando ti lavavi le mani in bagno, dovevi fare attenzione a non, siccome avevamo le asciugamani dietro la schiena rispetto al lavandino, quando ti ruotavi su te stesso per asciugarti le mani, non dovevi far gocciolare per terra. Perché mio padre mi diceva: tua madre pulisce tutto il giorno. Ma scusa, non c'era il famoso tappetino per il bagno, quello che dopo che l'hai lavato dopo due giorni è sporco perché ci salgo le scarpe? No, c'era, però il bello è che non dovevi gocciolare né sul tappetino né tra le piastrelle e dove c'era il porta asciugamani, ma soprattutto nel lavandino. Mi era stato insegnato proprio di scrollare le mani nel lavandino, però senza fare troppe gocce, perché anche lì poi si asciugavano e rimaneva l'alone. Quindi io dovevo asciugarmi le mani proprio per caduta gravitazionale. Quando erano semplicemente più solo umide, allora potevo passare all'asciugamano. Quanti anni hai adesso, Davide, scusami? 37. E come sei cresciuto? Come sei venuto fuori da questa famiglia? Guarda, era una caserma. No, questo era abbastanza evidente. Cosa fai nella vita adesso, Davide? Farai il consulente, immagino. Tutti facciamo il consulente. Cioè, quelli che chiamano a quest'ora. Tu di che cosa esattamente, quindi, Davide? Consulente per le piccole e medie imprese. Ma è vero che fai il consulente allora? Ma di che cosa? Per finanziamenti. Però mi hai dato una chiave, che di fatto i consulenti dalle 4 alle 4 e mezza sono all'ascolto della radio perché sono in macchina. Sì, perché ci spostiamo. Perché hanno preso un appuntamento dopo pranzo e poi c'hanno quello prima di chiudere la giornata. Prima di rientrare, Davide. In chiusura, l'unica cosa, mia moglie è una moglie che invece fa gocce da tutte le parti. Ah, perfetto, quindi questa è la legge del contrappasso. Io ricordo e dico: ma mo stai gocciolando? E cosa vuoi che sia? Solo acqua. Scusa, mo è il diminutivo di amore o di moglie? No, mo è il diminutivo di amore. Perfetto, grazie. Dopo 15 anni è diventato mo. Ciao Davide, grazie, buona giornata. Stiamo a Milano con Matteo, pronto? Ciao Matteo. Ciao, che lavoro fai Matteo? Scusami, ma a questo punto è più importante di qualsiasi altra cosa. Non faccio il consulente, faccio l'imprenditore, però ero in macchina e ti ascoltavo, l'ho chiamato. Imprenditore di cosa, Matteo? Commercio in materie plastiche. Cioè, tipo, fammi un esempio di un prodotto, di una roba. Lastre acriliche, Niente, più si cerca di specificare e più è un delirio. Una cosa abbastanza tecnica. Beh, lo immaginavo. Senti, raccontami invece qual è la tua regola. Allora, premetto, 40 anni, sono sposato da un anno e mezzo e mi sono sposato in un anno e mezzo, quindi vuol dire che fino a 38 anni e mezzo ho vissuto da solo per 15 anni. Sì. Quindi di regole ne avevo ben poche. O comunque tutte tue. Tutte mie, esatto. Anche perché, come ero fiero di dire, non facevo mai entrare il nemico in casa mia. Invece gli hai aperto le porte. Esatto. E quindi mi sono riempito di regole, ma soprattutto due in bagno. Vai. Una è che il phone si mette in un sacchetto, in un cassetto. Ma in un sacchetto di che cosa? Di plastica? Un sacchetto di stoffa. Eh? E questo sacchetto di stoffa con dentro il phone si ripone in un cassetto. Va bene, il cassetto lo posso capire, ma il sacchetto, c'è una motivazione per il sacchetto di stoffa oppure no? No, io pensavo fosse un retaggio della sua famiglia, che un po' è. E un po' no. Senti, però invece l'ha estremizzato, perché la sua famiglia ha semplicemente il phone nel cassetto, mentre io ce l'avevo semplicemente appoggiato su un ripiano. Senti, invece dimmi l'altra velocemente, Matteo. Gli spazzolini in un bicchiere, ovviamente il bicchiere non è che come tutto il mondo è appoggiato sul lavandino. No, dov'è? Anche questo in un armadietto, cioè una cosa comoda. Voi avete figli? No, non ancora. Avete in mente di averne però? Sì. Tu pensa ai genitori o ai fidanzati di questi ragazzini. Grazie Matteo, buona giornata. Ciao, alla prossima. Grazie. Ciao. Regola unica, occhio Paola lo dice. Regola unica: se vuoi avere diritti, osserva i tuoi doveri. Grazie a tutti. Grazie a Laura Paginti, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi, Stefano D'Andrea e Paolino Carleoni. Il cesto ovviamente è sul sito radio24.it. Domani vendo un umidificatore. Se dovete litigare in casa invece, fatelo per ragioni più serie, che alla fine un cesto per la biancheria è solo un cesto per la biancheria. Love, love, love.